Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Quando sono le 10,7 minuti e 30 secondi, non so mai se dire le 10,7 o le 10,8, perché non mi piace dire i secondi, non è che uno si sta al millimetro. Allora facciamo le 10,8 minuti. Buona domenica da Stefano Gallarini, il riposo del guerriero. Oggi parliamo di un argomento particolare, perché è stata una settimana curiosa. C'è stato San Valentino, c'è stato il Carnevale, che per noi gli ambrosiani, proprio per il vescovo Ambrogio, poi è diventato santo, è stato spostato di 3 giorni, tant'è vero che la Quaresima dura 40 giorni e non 43, e quindi dico, si parla di Sant'Ambrogio qua, e poi c'è anche Sanremo. Ecco, è stata una settimana dove i santi sono stati particolarmente importanti, e allora ho pensato, proprio in un periodo di crisi dove non si sa più a quale santo votarsi, di parlare proprio di questo, di santi, e legarli anche alla nostra vita quotidiana, perché è così, tra santi protettori, patroni delle città, i santi legati ai nostri nomi, insomma. Quindi oggi cercheremo di capire qual è il vostro santo, se ne avete uno che vi piace per qualche ragione, al quale siete votati per qualche motivo, e cerchiamo di capire quello che fa anche al caso vostro, perché molti sono legati veramente alla nostra quotidianità, al nostro mestiere, a quello che facciamo. Questo quindi l'argomento del riposo del guerriero. Ma voglio ricordarvi, come sempre, che intorno alle 10.40 giocheremo con Modigliani in 24 minuti. Per voi la possibilità di portare a casa il catalogo della mostra Modigliani, artisti di Montparnasse, che sarà a Milano dal 21 febbraio a Palazzo Reale, ammesso che voi riusciate a trovare il legame fra la canzone che vi faccio ascoltare e il titolo di una delle opere, in questo caso esposte proprio alla mostra. Siccome la mostra è dedicata non solo a Modigliani ma anche agli artisti di Montparnasse, il quadro legato al disco che sto per farvi ascoltare è di Chaim Soutine, ed eccola qui la canzone. Verde, verde luna, a mí me llama. De reflejo cruel, imaginando. Qual è il titolo nel quadro di Chaim Soutine che può in qualche modo legarsi a questa canzone? Dovrete dirlo alle 11, non ho sbagliato, alle 11.40 circa, con Modigliani 24 minuti. Il numero verde per prenotarvi 800 24 00 24, potete prenotarvi da subito. Ma entriamo nel vivo della puntata, iniziando con una canzone che ricorda proprio l'argomento, un pezzo di Angelo Branduardi. E camminando stanno gridando, ora le stelle stanno cadendo, le nostre mura stanno tremando, e camminando, a braccia alzate ballano i santi. Devo dire che così avevo fatto un po' un elenco, non dico scherzoso, però insomma curioso sul fatto dei santi di questa settimana. Qualcuno mi fa notare le dimissioni del Papa, ma io non l'ho citato semplicemente perché gli altri argomenti, le altre cose che avevo citato erano così su un piano un po' diverso da questo punto di vista. Dino Carpanetto, docente di storia moderna e curatore del dizionario biografico dei patroni. Buona domenica, professore Carpanetto. Buongiorno, buona domenica a voi. Eccoci qua. Allora, io comincerei con una domanda. A cosa servono i santi? Beh, i santi, secondo la tradizione della Chiesa Cattolica, sono, diciamo, strumenti che possono essere utili per diverse funzioni. Hanno cioè, diciamo, una validità, un significato, un'utilità molto differenziata. I santi servono innanzitutto a stabilire un rapporto di comunicazione tra il piano umano della vita e il piano divino, cioè sono uno strumento di collegamento tra l'uomo e la divinità. Al tempo stesso sono, diciamo, l'espressione di un trasferimento della divinità in terra. prima del cristianesimo c'è già un'attribuzione di santità, c'è nella cultura antica, nella cultura romana. Questa attribuzione di santità era riservata a Dio, all'imperatore. Col cristianesimo invece si fa strada l'idea che santi ci si possa, l'uomo possa diventare, che santi ci possa divenire imitando Gesù e acquisendone le qualità morali, in qualche modo, cioè adattandosi, adeguandosi all'insegnamento di Gesù. Cioè i santi sono tramite della comunicazione tra il piano divino e il piano umano dell'esistenza. È un concetto basilare nella teologia cattolica questo. Ed è un concetto che poi differenzia il cattolicesimo dal protestantesimo e dalle religioni riformate. Cioè i santi non sono soltanto per i cattolici dei modelli esemplari di vita a cui ispirare la vita dell'uomo comune, non sono soltanto degli intermediari, degli intercessori che possono garantire salvezza terrena, che possono garantire guarigione, che possono avere un valore appunto taumaturgico, ma sono anche sostanza essenziale insieme con la vita di Cristo di quel patrimonio di salvezza di cui la Chiesa è dispensatrice. Quindi i santi fanno parte di quella grande patrimonialità di salvezza di cui la Chiesa è dispensatrice unica. Ecco, insomma, quindi questo è il motivo perché ci sono così, li sentiamo così vicini, perché ci appartengono, ecco, in questo senso. Per cui mi viene da, adesso non vorrei dire un'eresia, no? Perché io, mentre parlava, professore, così avevo in mente anche quelli che prima invece erano, non so, i semidei, per esempio, che erano uomini che però avevano modo di parlare con le divinità. Forse quindi è un po' la stessa cosa, cioè quella funzione lì, per capirci. Sì, ci sono già nell'antichità delle figure appunto che stabiliscono questo ponte di comunicazione tra l'uomo e Dio, i semidei sicuramente, delle figure anche della mitologia che svolgono funzioni che sono simili a quelle che poi il cristianesimo attribuirà ai santi. Il cristianesimo non nasce dal nulla, nasce da una cultura, certo, da una grande cultura greco-romana che trasforma, riplasma secondo altri significati, no? Secondo altre tradizioni. Insomma. Quindi ecco, questo quindi è il nostro ponte, ecco perché ovviamente quindi li sentiamo così vicini. Poi per un motivo o per l'altro, ovviamente proprio per questo motivo, esatto, proprio per questo li preferiamo, preferiamo uno all'altro, no? Sia per le gesta che hanno compiuto, ma sia anche per vicinanza, per tanti motivi. Vedremo quali sono i vostri, se li avete per un motivo o per l'altro, o se avete anche qualche curiosità che il professor Carpanetto riuscirà magari a soddisfare. C'è un santo del quale si continua a parlare in questi giorni e si parla ancora oggi, che ormai ha perso la sua valenza di santo, perché lo ricordiamo esclusivamente per una località turistica molto popolare e per il festival che è Sanremo, appunto. Professor Carpanetto, ma Sanremo è stato un santo per forza, prima di essere un'altra cosa, almeno il nostro immaginario, almeno, no? Sì, è anche un santo su cui si hanno pochissime certezze, è un santo anche abbastanza controverso. Sanremo, se uno compulsa gli strumenti della agiografia cattolica, l'agiografia è la scienza che studia i santi, sì. Di Sanremo non c'è traccia. C'è traccia invece di un Romolo, curiosamente appunto portatore di un nome che associamo a Remo sulla base di quella cultura classica che lei citava prima. Sì. San Romolo risulta essere, per quel poco che se ne sa, vescovo di Genova del IX secolo, poi trasferitosi in località vicino all'attuale Sanremo, dove morì. C'è poi tutto il rito della traslazione del corpo, che è uno dei luoghi forti comuni della santificazione di un luogo, no? E di lì nasce per l'appunto questa variante Sanremo collegata a San Romolo per indicare due località limitrofe tra loro unite. Poi Sanremo prevalse nell'uso quotidiano e divenne toponimo toponimo appunto del comune omonimo. Ma la questione, a quanto mi risulta, andò avanti per molto tempo. Ancora negli anni 30 e 40 del secolo scorso si discuteva se cambiare il nome di Sanremo in quello storicamente più accettabile di San Romolo, ma ci fu, a mio avviso saggiamente, il rifiuto di modificare un toponimo che ormai si era consolidato nell'uso comune, e Sanremo è rimasta tale, è rimasta una città che porta questo nome. Ecco, potremmo... Se facciamo un festival, difficilmente possiamo associarla a un santo fortemente identificato con quel nome. Ma in effetti, anche chiedendo, no, parlando, raccontandogli questa puntata alle persone a me intorno, quando dicevo di questo, tutti mi dicevano: ma in effetti, pensando a Sanremo, istintivamente si pensa esclusivamente al festival o alla località, ma proprio non viene minimamente in mente che possa essere stato invece un santo, come è invece nella realtà dei fatti. Che il toponimo Sanremo è scritto tutto insieme, sì, no? Cioè tutto, non è staccato, esatto, staccato Remo maiuscolo, ma si sono fuse le due parti, la particella San e il nome, quasi a indicare un toponimo che si è distanziato dal suo riferimento originario al santo di Infatti è così, è proprio così. Tra l'altro, scusi, c'è anche una curiosità, lo notavo prima, la cattedrale di Sanremo non è dedicata a Sanremo, no? Ecco, quindi c'è anche questo aspetto, che non è un santo, a quanto mi risulta, che abbia un culto particolare nella città, come invece capita in tanti altri santi che hanno dato il loro nome al toponimo, oppure che sono legati a... Ne parleremo anche nel corso della puntata, fra l'altro, di questo, no? Di località legate proprio al santo come tale. E quindi... certo. Invece in questo caso no, se lo sono quasi dimenticati, insomma, sì, alla fine. Ecco. Avremo anche un festival di San Romolo a questo punto, se volessimo. Marta Cagnola, ciao, buona domenica. Buongiorno, per me il mio momento rituale è fare le valigie in collegamento col riposo del guerriero. Sì, ormai è sempre così. Mattina. Dimentichi mai qualcosa, dimentichi qualcosa o ti ricordi sempre tutto? Non so. No, sono abbastanza brava, ricordo quasi sempre tutto. Sì, sì, ormai, però sono talmente tanti anni che ormai la valigia è un fenomeno automatico, quasi da sola. Allora, sei pronta per la conferenza stampa di chiusura del festival, che sarà a mezzogiorno, se non mi sbaglio, però sì, c'è stata una conferenza stampa notturna, no? Dopo l'elezione del vincitore. Sì, sono dei riti sanremesi che ormai gli ascoltatori di Radio 24 conoscono, perché sentendoci spesso sanno anche un po' come si svolge la giornata al festival, tutti i giorni a mezzogiorno o mezzogiorno e mezzo a seconda delle edizioni, degli anni e dell'organizzazione, c'è la conferenza stampa ogni giorno di commento dei dati e la domenica il commento finale, ma la notte del sabato dopo la finale c'è la cosiddetta conferenza dei vincitori, arrivano in conferenza stampa appunto i vincitori, coloro che sono saliti sul podio e il vincitore del premio della critica. Potete immaginare com'è stata la conferenza stampa di questa notte, con gli Eli arrivati grassissimi. Ecco, voglio dire, non si sono allora Eli, le storie tese, per chi non avesse visto il festival, avrete letto, sentito, comunque sono apparse ogni volta, ogni serata in un modo diverso, e dopo racconteremo anche degli aneddoti. Comunque quella di ieri sera la versione cicciona, erano particolarmente grassi proprio, diciamo, addirittura la faccia era, cioè, il doppio mento avevano, c'è stato un lavoro di trucco notevole, non soltanto quindi nell'abbigliamento più facile, perché basta un po' di gomma piuma, ma anche le facce erano gonfie. Sì, non era un'imbottitura, erano veramente anche visti da vicino, sì, veri, gonfiati, e ovviamente non era possibile struccarsi. Ah, ecco, quindi sono venuti così in conferenza, certo, stampa, e sono riusciti, certo, a sedersi tranquillamente malgrado la gomma piuma che li riempisse, va bene, ok. Sì, devo dire che non ho idea di quanto caldo potessero soffrire sotto quel travestimento, perché era veramente... Cioè, era una sofferenza guardarli, però pazzi, dico solo che si sono lamentati del premio della critica. Perché? Perché hanno detto che adesso, dopo tutti questi anni di carriera, finalmente si meriterebbero un premio dei complimenti, basta critiche, critiche, critiche, hanno detto. Andrebbe però fatto, avrebbe istituito il premio dei complimenti, esatto, davvero. Vabbè. Perché no? Allora, anche perché stavano per fare la tripletta, non l'hanno fatta, quindi premio della critica, premio miglior arrangiamento hanno preso, se non mi sbaglio, hanno mancato per pochissimo il primo posto, erano comunque sul podio perché sono arrivati secondi. Sì, hanno detto che poi adesso i giornalisti li chiameranno i Toti Cutugni degli anni 2000, riferendosi all'abbonamento al secondo posto per tanti anni di Toto Cutugna, che peraltro è stato appunto a Sanremo quest'anno con tanto di Armata Rossa, quindi ecco, torna. La prima puntata così discussa, uno dei motivi è stato quello, poi l'altro è stato Crozza, l'abbiamo letto così, e se ne è parlato ancora o la si è completamente dimenticata poi? Guarda, Sanremo è un luogo un po' particolare perché ci si sta 8-9 giorni e sembra di stare via un mese, soprattutto dalla prima serata non sembrano passati 5 giorni, ma probabilmente perché viviamo 23 ore al giorno sembra passato un mese. Si ritorna a parlare, certo è che tutto è cambiato con i dati d'ascolto della mattina dopo di mercoledì mattina, perché probabilmente se i dati non fossero stati così felici e così fortunati l'affair Crozza avrebbe avuto tutt'altro impatto, invece così alla fine ha avuto un po' di impatto sulle cronache di gossip politico, ma insomma sulla trasmissione non tanto. Devo dire che ieri a bocce ferme è stato chiesto a Fabio Fazio, che già ha lasciato Sanremo perché ha già twittato questa mattina alle 5, era già arrivato a Milano. Fabio Fazio ha confessato che l'unica cosa che avrebbe cambiato sarebbe stato proprio nel monologo di Crozza invertire i nomi, perché avrebbe disinnescato subito un meccanismo probabilmente già in molti concordano con questo. E invece il bisio di ieri come ti è sembrato? Perdonami? Il bisio di ieri come ti è sembrato? Il bisio, sai che mi è sembrato un filino debole, cioè mi è sembrato che volesse far ridere in maniera totalmente bipartisan ed è veramente tanto difficile, è molto molto difficile. Pensa che a Zelig, insomma Gino e Michele, che sono le grandi menti dietro a questo spettacolo che è stato per tanti anni insieme a Claudio Bisio, dicono che fare la satira politica è molto più facile che far ridere sulle cose di tutti i giorni, perché insomma la satira politica è qualcosa che viene da sé, e invece probabilmente la satira politica bipartisan è un esercizio ancora più complesso, secondo me bisogna ancora in questo imparare. Sono molto bravi gli sgommati, onestamente, io lo dico, continuo a dirlo, ho anche intervistato gli autori, sono molto bravi a essere bipartisan davvero. Provo molto affetto per gli sgommati, quindi non sono un po' di parte, ecco. E l'ultima domanda che ti faccio, Marta, è questa: un'opinione sul vincitore, su Mengoni, secondo te se c'è un motivo insomma che l'ha spinto alla vittoria più degli altri, perché sappiamo che le componenti che giocano non sono soltanto quelle della qualità, della bellezza della canzone, della bravura dell'interprete, ma anche a volte altre, o comunque sono supposizioni che ci piace fare. Sì, sono altre, poi il voto temperato tra televoto, giuria di qualità. Io ho un'interpretazione. Sì. Non è tanto figlio del talent, perché comunque sono molti anni che Marco Mengoni ha fatto X Factor e soprattutto ha fatto molte cose dopo. Non è Scanu, Carta. Ma poi è indubbiamente di talento dal punto di vista vocale, per cui questo non si discute. È un ragazzo di talento. E io direi che è stato l'effetto Luigi Tenco. Lui nella serata Sanremo Story era già favorito, ma nella serata Sanremo Story ha cantato Ciao Amore Ciao, sì. L'ha cantata molto bene, l'ha cantata veramente in maniera genuinamente commossa, guadagnandosi ringraziamenti della famiglia Tenco. Credo che quel momento, quelle luci negli occhi, le labbra che tremavano, abbiano davvero fatto la differenza. E quindi abbia catturato anche il pubblico, diciamo, dei non giovanissimi, che sono quelli che mandano gli SMS, per capirci, e ha catturato il pubblico invece di chi il festival lo vive da tanti anni e quindi insomma ha un ricordo e un legame con la storia di questa kermesse. Grazie Marta Cagnola, finisci la tua valigia e poi insomma goditi il tuo pranzo sicuramente al mare, e poi ci vediamo qui a Milano. A prestissimo. Buona serata, cioè buona serata, buona giornata, io sono già oltre, grazie. Ciao. Puoi farla fare all'orchestra mentre ti prendi una pausetta. Ottimo questo caffè. Puoi cambiare la lingua. For example, you can sing it in English, auf Deutsch, in francese e in spagnolo, in cinese, unci, dunci, trinci. Quante cose che puoi fare senza cambiare la nota. Puoi cambiare lo... È difficilissimo entrare ovviamente in questa canzone, è impossibile ascoltarla fino alla fine, però unci dunci trince Gianni Rodari, per cui hanno preso anche da lui, oltre che da Jobim, citato, tra l'altro la canzone finisce proprio con la citazione della samba di una nota so di Jobim, però loro si lamentano perché dicono alla fine anche Jobim ha dovuto cambiare la nota, quindi non ha resistito. E vabbè, intelligente canzone da tanti punti di vista, musicalmente difficile da cantare, da interpretare, da suonare, e l'orchestra aveva applaudito poi ieri sera perché si è molto divertito secondo me a scrivere questo pezzo. Bene, chiudiamo quindi la parentesi Sanremo, che è partita proprio con il Santo. Intanto c'è sempre il nostro docente di storia moderna, il curatore e lezionario biografico dei patroni, che è Lino Carpanetto. Professore, è ancora lì, spero. E si è fatto una risata ieri quando ha sentito, se l'ha sentito, le storie tese o il festival in generale? No, ieri sera non l'ho saltato a pie pari. Ho vissuto, la Marcord struggente l'altra sera con i ricordi del festival precedente. Ecco, quindi lei è un po' d'accordo anche con Marta Cagnola, forse, nel dire che la scelta anche delle canzoni ha influito un pochino sul poi il vincitore finale, perché... È stata molto toccante quell'interpretazione, sì, mi è piaciuta molto. Sì. E in effetti è stato così. Non solo quella, ma anche altre. Anche altre, beh, anche perché insomma hanno ricordato momenti del festival, grandi momenti anche della canzone italiana in generale. Allora, siamo partiti da Sanremo perché indubbiamente insomma popolarissimo in questi giorni, almeno come manifestazione, abbiamo visto un po' meno popolare come Santo. Ce n'è un altro invece del quale si continua a parlare, cioè, anzi si è parlato, e che forse ormai si ricorda anche qui solo per gli innamorati, che è il San Valentino, ma è stato santo anche Valentino, no? È stato santo anche San Valentino. Beh, su San Valentino si può fare il discorso che prima accennavo, cioè dire la umanizzazione della santità, no? Cioè il fatto che i santi sono in fondo dei nostri amici, li invochiamo. Lucio Dalla ha iniziato una bellissima canzone, no? Santi che mi pagano il pranzo in Piazza Grande, non ne ho, eccetera, eccetera. Voglio dire, questa figura di San Valentino dimostra proprio nella sua evoluzione storica il corrompimento della santità, la desacralizzazione. San Valentino, attestato nella tradizione agiografica, era un vescovo martire del secondo secolo. La festa di San Valentino è una ricorrenza che nulla ha a che fare con la figura del martire a cui fa riferimento il nome, ed è una festa che probabilmente, su questo siamo nel campo delle probabilità, risale all'alto medioevo e che probabilmente è legata al circolo inglese di Geoffrey Chaucer, l'autore dei racconti di Canterbury, del romanzo della Rosa, eccetera. Cioè siamo alle origini della letteratura anglosassone, siamo nel XIII-XIII secolo per l'appunto. E da quanto risulta, appunto, in questo tardo medioevo, sia in Francia sia in Inghilterra, questa tradizione di invocare Valentino come un santo, diciamo, dell'amore che inizia, legato alla primavera, al rito dell'accoppiamento degli uccelli, si presta per l'appunto a considerare questa festa una festa degli innamorati. Sarà poi l'industria commerciale americana, per quanto mi risulta, a farla diventare quella che è oggi, cioè il momento in cui in Europa, ma non solo in Europa, anche in Asia, negli Stati Uniti, il 14 di febbraio si celebra nella festa, appunto, degli innamorati. Allora sentiamo il professor Legrenzi, professore straordinario di psicologia cognitiva presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, per parlare proprio della tradizione di San Valentino. Professor Legrenzi, buona domenica. Buona domenica a voi, grazie. Allora, come nasce questa tradizione invece della festività, a parte il santo, che abbiamo sentito dal professor Carpanetto, arrivare a quello che festeggiamo noi, con scambio di fiori e di baci in tutti i sensi? Il professor Carpanetto ha giustamente illustrato correttamente questo percorso, diciamo, come posso dire, di paganizzazione della festa, di commercializzazione. Sì. Forse si può fare questa notazione che in fondo, rispetto alle altre operazioni analoghe, la festa papà, della mamma, cioè tutti i tentativi, come posso dire, di ravvivare i consumi attraverso gli affetti, in questo caso il San Valentino è rimasta qualcosa delle tracce della storia che il professore così bene ha raccontato, perché l'imprenditore che lancia San Valentino dal punto di vista commerciale a metà, diciamo, fine Ottocento, è un'americana, c'è cioè una donna in fondo, no? Non è un uomo, è una donna che ha questa idea di commercializzarla, di mandare cartoline e poi regali, al punto tale che oggi vengono scambiati un miliardo di cartoline in occasione del San Valentino. Ecco, infatti in inglese si chiamano Valentine, che sono proprio le cartoline dedicate all'amore. Sì, hanno proprio un nome specifico per indicare, sì, quelle. È la prima volta che si usa, sì, giusto per fare un'aggiunta storica, la manda Carlo d'Orléans a sua moglie mentre è prigioniero a Londra dopo la battaglia di Agincourt. Quindi in realtà è questa storia, è una storia che tocca molti paesi, dopo naturalmente diventa anglosassone. È anche interessante come cartina di tornasole, non solo dello sviluppo storico, e quindi diciamo in origine nasce come una festa biologica per la fertilità. Sì. È interessante il clima culturale odierno, di cui parlo come psicologo, che oggi il New York Times la ricorda facendo una mappa di tutte le zone del cervello che vengono attivate quando uno si innamora. Quindi c'è un ritorno, diciamo, a 2000 anni prima, al biologico, perché questa festa passa dal, diciamo, la fertilità, cioè il biologico, poi diventa la festa degli innamorati, cioè dell'amore romantico, e poi questo amore romantico viene commercializzato. Però è anche interessante nel senso, diciamo, sincronico, cioè nel confronto tra varie culture, perché per esempio viene esportata in tutto il mondo, anche in paesi di tradizione diversa da quelle che il professore ha ricordato così bene, per esempio il Giappone. Però in Giappone cosa succede? E invece di uno scambio, no, tra gli innamorati, che si mandano le cartoline e poi i regali e così via, l'uomo sta a casa, non fa niente, e la donna gli porta un cioccolatino messo su un bastoncino che ha l'effigie, che lei prepara personalizzato, del suo innamorato. Quindi diciamo, invece di essere bilaterale, sì, simmetrica, è una festa simmetrica. I cinesi invece hanno un loro San Valentino tutto diverso, come sempre fanno tutto diverso, con un'altra data, con una tradizione più simile a quella giapponese di asimmetrica. Ecco, comunque. Quindi, è una festa che ricorre in molti paesi. Ecco, questo ricorre in molti paesi. E siccome è molto antica, perché come ha detto il professore risale agli antichi romani, poi dopo diventa il martire, che non c'entrerebbe nulla con i successivi sviluppi, ci permette di vedere attraverso la storia i cambiamenti, e poi attraverso i paesi, siccome è mondiale in certo qual modo, i diversi modi in cui le varie culture l'hanno declinata. Da noi è prevalsa l'aspetto, diciamo, commerciale, industriale. Però è stata una donna che l'ha inventato, eh? Interessante. Questo sì, decisamente. Grazie, professor Paolo Legrenzi. Io spero che comunque sia una festa che si abbia voglia di festeggiare tutti i giorni, perché l'amore credo che sia alla base di qualunque scelta nella vita in generale, non solo quella verso le persone ma anche quella verso la vita stessa, le cose. Lo so che sembra banale, ma è così, forse a volte bisogna ricordarlo, e speriamo che si continui a festeggiare, magari in modo un po' meno commerciale e in modo più intimo e profondo. Cerchiamo che sia così, di fare che sia così. Le cose possono convivere, eh? Ah, devono, beh, possono, devono sicuramente convivere. Poi abbiamo anche, viviamo comunque nel 2013. Grazie ancora, professor Legrenzi. Buona domenica. A voi, buona domenica. Allora, torniamo con Dino Carpanetto, nostro docente di storia moderna, curatore del dizionario biografico dei patroni, per parlare anche dei santi sociali, perché ci sono dei santi che ci appartengono nella nostra quotidianità, professore. Sì, è indubbio che l'ambito della santità si è molto modificato nel corso dei secoli, nel senso che la santità è sempre stata, diciamo, una sorta di contenitore di modelli di vita esemplare da indicare e da assumere come riferimento per la Chiesa, e da questo punto di vista il concetto di santità si è modificato storicamente. Nell'Ottocento, ma poi soprattutto nel Novecento, si è notevolmente ampliato. Se noi guardiamo nel catalogo dei santi prima dell'Ottocento, vediamo che i santi sono per lo più missionari, fondatori di ordini, grandi figure di spiritualità, mistici, oppure sono santi dinastici che le monarchie europee chiedono, impongono alla Chiesa. Nel Novecento invece cominciano a essere valorizzate delle figure di religiosi che hanno nella loro vita, nella loro biografia, un forte carattere sociale. E poi sono stati valorizzati e coinvolti nella politica della santità, molto più che in passato, anche i laici e le donne. Questa è una delle caratteristiche della politica della santità, mi si passi questo termine, che fa riferimento al libro che ha scritto una mia collega, Marina Caffiero, sul concetto di santità nel Novecento. Si è notevolmente ampliato, ci sono dei casi evidenti, c'è tutta una catena di santi cosiddetti sociali che appunto vengono canonizzati nel Novecento. Ecco, io una parentesi semplicemente, perché stanno arrivando molti messaggi, adesso poi qualcuno lo leggerò. È vero che il detto dice scherza coi fanti ma lascia stare i santi, però che è anche vero che la puntata di oggi insomma cerca anche un pochino di sdrammatizzare, soprattutto di raccontare anche i santi in un modo un po' diverso, come è proprio proprietà del Riposo del Guerriero. E nel mio elenco iniziale, in cui c'è una settimana di San Valentino, di Sanremo, c'è qualcuno che mi fa notare, è anche stata la settimana di San Vittore, perché in effetti è vero che si è ricordato anche questo santo, ovviamente per motivi completamente diversi. Il riposo del guerriero. Santo a cui mi riferivo è Giovanni Bosco, vero Carpanetto? Sì, Giovanni Bosco è probabilmente uno dei prototipi della santità sociale, di questo nuovo modello di santità che viene proposto dalla Chiesa nel Novecento. Le notizie biografiche che posso dare sono molto, molto rapidamente, insomma lui era un figlio di contadini, entrò in seminario e fu ordinato sacerdote, siamo negli anni 40 dell'Ottocento, e iniziò ad occuparsi da sacerdote dei ragazzi poveri, abbandonati, disadattati, marginali diremmo oggi, di Torino, e iniziò l'opera degli oratori che aprì nei quartieri popolari della città. In questi oratori, oltre alle devozioni, alle piccole devozioni, eccetera, veniva impartita anche un'istruzione elementare di base per ragazzi che altrimenti non avrebbero avuto accesso all'alfabetizzazione, e venivano date nozioni tecniche per l'esercizio di un mestiere. Certamente da questo punto di vista la figura di Giovanni Bosco è quella di un sacerdote che si dedica a un'attività di assistenza e di recupero in una fase di cambiamento importante della città, in questo caso Torino, siamo agli inizi dell'industrializzazione, poi più avanti saremmo nella Torino laica del Risorgimento e del dopo Risorgimento. La Chiesa lo indica come figura esemplare proprio per questa sua attività nel settore delle scuole professionali, e lo indica soprattutto come inventore dell'editoria popolare di stampo devozionale. Certamente Giovanni Bosco fu uno dei grandi costruttori di una cultura popolare cattolica, una cultura che esercitò un notevole influsso nelle città industriali di fine Ottocento. Lui aveva aperto una collana che si intitolava sintomaticamente Letture edificanti, una collana che già nel titolo dichiarava esplicitamente l'intento, un intento devozionale, un intento educativo, un intento di carattere apologetico nei confronti del cattolicesimo. E scelse una formula molto moderna, quella cioè di una collana fascicoli, e ne stampò circa 500, un gran numero di fascicoli, per un totale sembra tra i 2 e 3 milioni di copie, quindi siamo su cifre imponenti per quel periodo. Ogni fascicolo conteneva un profilo biografico di figure esemplari del cattolicesimo, erano biografie che indulgevano al racconto un po' immaginifico, meraviglioso, spesso anche lontano dalla verità storica, e di questo lui fu rimproverato anche da parte cattolica. Beh, però c'era la fascinazione della storia, no? C'era la fascinazione della storia, e c'era l'intuizione di trovare uno strumento di propaganda culturale cattolica che fosse adeguato alla cultura di quei ragazzi che lui prendeva per strada, i quali insegnava primi rudimenti della lingua, primi rudimenti di un mestiere, poi avviava alle scuole professionali da cui uscivano operai da inserire nelle industrie che allora cominciavano a essere aperte, sì, a Torino, e bisognava anche farne dei buoni cattolici, dando loro strumenti di conoscenza semplici, adeguati al loro livello. E non a caso a fianco a questo c'è poi tutta il momento del cosiddetto teatrino, no? Teatrino è la parola usata da Don Bosco per indicare la pedagogia teatrale, usare il teatro come strumento di una ricreazione che al tempo stesso si fa devozione, si fa insegnamento religioso. Davvero un illuminato. Ecco, tra l'altro io voglio ricordare che è stato, oltre giornalista e scrittore ovviamente, però anche proprio legatore, tipografo, stampatore, e la cosa che mi ha molto incuriosito è che nel 1884 si è presentato all'Esposizione Universale di Torino e aveva creato uno stand che mostrava tutto il ciclo della produzione editoriale, quindi dalla scrittura fino alla stampa. E fu un successo talmente grande che, appunto, come diceva lei, professor Carpanetto, invogliò proprio le persone ad avvicinarsi proprio anche a quel mestiere dello stampatore, del litografo. E quindi era una figura di sacerdote che non rifiutava la modernità del suo tempo, ma anzi la usava. E cercava di mettere in questo confronto tutti i contenuti di un cattolicesimo di carattere fortemente operativo, basato sulle opere, fondatore di scuole, di collegi, case editrici, teatro, cinema, più ne metta. Un cattolicesimo, badate bene, ben lontano dai modelli invece di un cattolicesimo torinese italiano di quel periodo. Cioè un cattolicesimo, quello di Don Bosco, poco attento alle inquietudini culturali e religiose, poco pensoso sui grandi temi della religione, ma più molto pratico, più pratico, più operativo, più vicino alle persone, anche in questo senso, no? Più vicino proprio alla nostra quotidianità. Poi anche degli effetti di manipolazione sulla cultura molto forti anche. Va bene, un po' di propaganda in questo senso, e giustamente, insomma, fa parte anche del gioco. Io proprio pensando alla figura di Don Bosco ho pensato di invitare anche Gianni Stefanini. Buona domenica, Stefanini. Grazie. Non abbiamo molti minuti, ma lo facciamo volentieri per parlare di Tra le righe, che è un festival da lei organizzato, perché lei è il direttore del Consorzio Bibliotecario del Nord-Ovest, organizzato proprio questo festival, che è un festival dedicato alla piccola e media editoria indipendente, quindi dei nuovi Don Bosco, diciamo così, e almeno da quel punto di vista, a Cinisello Balsamo dal 22 al 24 febbraio. Chi si incontrerà in questo festival? Ma guardi, questa è l'occasione per mettere insieme due soggetti che si sono considerati nel tempo quasi dei nemici, gli editori da una parte e le biblioteche e i bibliotecari dall'altra, gli editori che concepivano le biblioteche come sottrazione di vendita. E questa invece è l'occasione per mettere insieme questi due soggetti che finalmente stanno comprendendo che solo attraverso una forte alleanza possono rilanciare tutta la filiera del libro. Un festival in una biblioteca che è un gioiello, appena inaugurato, 5.000 metri quadri nella città, nel pieno centro di Cinisello Balsamo, 5.000 metri quadri di biblioteca. Metà di questa biblioteca nei giorni dal 22 al 24 viene dedicata all'esposizione di libri della piccola e media editoria. Piccola e media editoria che ha un senso specifico, perché è quella più in difficoltà nella filiera del libro. Lei sa benissimo che nelle librerie, nei circuiti di vendita, un libro ha la possibilità di essere esposto non più di qualche giorno, tanta è la produzione editoriale in Italia. E le biblioteche invece sono il catalogo permanente dell'editoria, sono la possibilità di andare a rivedere e a conoscere meglio tutto quello che viene prodotto, poi magari per poterselo comprare. Quindi davvero è un connubio importante quello che stiamo cercando di fare, organizzato dal Comune di Cinisello Balsamo innanzitutto, e noi come partner di progetto, per mettere a disposizione degli utenti una rassegna di un'editoria che altrimenti farebbero fatica davvero a vedere nei circuiti tradizionali. Ecco, le chiedo, Stefanini, in chiusura dell'intervento, se secondo lei si sta tornando a leggere? Ma guardi, i dati generali sulle biblioteche ci dicono che abbiamo una complessiva riduzione della lettura. Ancora. Anglosassone registra un 2%, quasi un 2% in meno di lettura. Stiamo rilevando però dei segnali di recupero, in particolare delle biblioteche, in questo periodo di crisi, perché credo che la gente stia riscoprendo le biblioteche come un'opportunità per accedere al libro senza doversi accollare costi elevati. Certo, poi di questo poi parleremo, anche perché c'è anche un nuovo fenomeno che sta crescendo, ne parleremo dopo il GR. Intanto grazie Gianni Stefanini, vi ricordo Tra le righe, il Festival della piccola e media editoria indipendente a Cinisello Balsamo dal 22 al 24 febbraio. Buona domenica, grazie ancora. Il riposo del guerriero. Parliamo di santi oggi nel riposo del guerriero, alle 11:06. Ancora buona domenica da Stefano Gallarini. Allora, non lo so, adesso sentiamo intanto professor Carpanetto, buona domenica. Eccoci qua ancora col nostro ospite, del Centro di Storia Moderna e curatore nazionale biografico dei Patroni. Io volevo sentire Andrea Corsi, eccolo qua. Andrea Corsi, buona domenica. Buona domenica a voi. Allora, Andrea Corsi ha scritto 101 personaggi che hanno fatto grande Milano insieme a Daniela Ferro, e Corsi si è occupato proprio di Sant'Ambrogio, dico bene? Esatto. Allora, mi fanno notare, il carnevale ambrosiano dura 4 giorni in più, tutti terminano con martedì grasso, noi con sabato, certo, ma dura 4 giorni in più oppure semplicemente è stato spostato, nel senso che appunto per attendere Ambrogio hanno così proprio spostato in avanti, diciamo così, le date? Esatto, e come ha detto in quest'ultimo caso... Non dura 4 giorni in più, quindi comincia più tardi. Dico bene. Esattamente, la figura di Sant'Ambrogio del resto è legata, si diceva prima, ai santi per caso, è proprio un patrono per caso che ha un po' dovuto sconvolgere tutti i calendari delle tradizioni ambrosiane, a cominciare dal fatto che quando fu nominato vescovo non aveva neppure ricevuto i sacramenti e quindi è dovuto essere battezzato anche lì in un periodo lontano dalla Pasqua come la tradizione. Ecco, quindi funziona così, e tanto è la nostra quaresima, tra virgolette, dura meno, dura 40 giorni al posto che 43, no? Questo è, esatto. Perché si parte dopo. E c'è questa particolarità legata proprio alla singolarità della sua figura in quanto vescovo. Ecco, come è nato Ambrogio quando è diventato santo? Cioè prima è stato vescovo e poi cos'è successo? Sono successi alcuni eventi miracolosi che hanno contraddistinto la sua missione come vescovo della Chiesa ambrosiana, che da lui appunto avrebbe preso il nome, e che viveva un periodo estremamente difficile dal momento che era contrastata in particolare dalla presenza di ariani, che allora rappresentavano anche la maggioranza dei credenti cristiani a Milano, e poi c'erano già allora le pesanti ingerenze da parte dell'impero, che voleva comunque mantenere la propria autonomia rispetto alla Chiesa cristiana. Ecco, quindi poi una figura particolarmente importante della quale si raccontano molte cose, credo non tutte vere. Tra l'altro lei ha anche curato il grande libro dei misteri di Milano e credo che molti di questi riguardino proprio Ambrogio. Esatto, cominciare dalla lotta che Ambrogio aveva fatto col diavolo, di cui vedremo ancora i segni in una colonna vicino alla basilica, proprio dedicata a Sant'Ambrogio, che lui stesso poi fondò. Le corna, giusto, impigliate nella colonna. Le corna del diavolo che forarono questa colonna romana, non si sa se perché il diavolo sfogò con la testa la rabbia di non riuscire a convincere Ambrogio a seguirlo sulla sua strada di perdizione, o perché addirittura preso a calcioni dallo stesso santo per non cadere in tentazione. Oltre a questo poi ci sono altri eventi miracolosi che in realtà sono stati ricondotti addirittura fino alla nascita di Ambrogio, quando ancora in culla alcune api entrarono nella sua bocca senza pungerlo e lasciarono alcune stille di miele. Per la tradizione questo è un attestato della capacità di parola, di grande oratore che avrebbe avuto e di saggezza che avrebbe dimostrato. Le api poi tornano a volare sul sepolcro di Sant'Ambrogio subito dopo la sua sepoltura. Ecco, quindi Ambrogio, figura tra l'altro veramente molto importante per la città di Milano e con curiosità che lo riguardano anche con qualche mistero che non sarà mai svelato, e questo è il fascino dei misteri, se no non lo sono più. Grazie Andrea Corsi, buona domenica. Grazie ancora. Vi ricordo il libro 101 personaggi che hanno fatto grande Milano e il grande libro dei misteri di Milano Newton Compton, scritto insieme a Daniela Ferro. A proposito di Milano, voglio dire che c'è in edicola il maschile del Sole 24 Ore, il The Lifestyle del Sole 24 Ore, dedicato proprio questo numero dedicato proprio alla città visibile, ovvero a Milano, con il suo nuovo skyline, perché sta crescendo una Milano nuova da questo punto di vista. Chi è passato per la città o chi conosce la città si sarà accorto del nuovo skyline. E Sant'Ambrogio mi riporta in qualche modo a un santo, invece, visto che Sant'Ambrogio è il protettore della città di Milano, c'è un santo del quale molto si parla, che è il santo patrono invece di Napoli, altrettanto importante, che è San Gennaro. Dino Carpanetto. Sì, San Gennaro può fare da pandan a Sant'Ambrogio in un ambito completamente diverso come riferimenti storico-culturali, no? Sant'Ambrogio è il santo che rappresenta quella fase decisiva della storia della Chiesa, della storia dell'Occidente, cioè quel periodo del 300 quando il cristianesimo, che era stata sin allora una religione perseguitata, diventa invece una religione che riesce a imporre con la forza. Sant'Ambrogio è raffigurato anche con la spada, a cavallo, riesce a imporre la sua superiorità rispetto all'arianesimo e alle altre religioni, quindi è una fase in cui i cristiani da martiri perseguitati diventano invece persecutori delle altre religioni che sino allora erano liberamente praticate nella Roma pagana. San Gennaro ci porta in tutt'altro clima. San Gennaro è anch'egli di origine romana, è un vescovo e martire del secondo secolo dopo Cristo. La sua figura emerge nelle tradizioni medievali, dove ci sono racconti, le famose passioni, no? I racconti delle vite dei santi che intorno a San Gennaro indicano figure dell'antichità e del martirio al tempo dei Romani, e cominciano a indicare delle figure così straordinarie che riescono a compiere miracoli anche a distanza di tempo dalla loro vita. C'è ad esempio un'interessante omelia medievale che è stata studiata, che attribuisce al santo partenopeo l'arresto miracoloso dell'eruzione del Vesuvio, probabilmente quella del 478. Comunque San Gennaro, come sappiamo tutti, è il santo dei napoletani, è il santo dell'ampolla, del miracolo, o presunto tale, non miracolo per la Chiesa, della liquefazione, appunto. Sì, però a quella funzione di cui si parlava proprio all'inizio, no? Della puntata. A quella funzione, ecco, che diceva bene Paolo Legrenzi, cioè dimostra un po' come la figura dei santi, essendo figure che sono a metà tra la divinità e un'altra loro parte invece legata agli aspetti umani, sono sempre oscillanti tra diciamo un aspetto spirituale, sacrale, invece un aspetto che poi alla fine è paganeggiante, se non addirittura pagano, quindi sono in bilico ed è un crinale su cui la Chiesa ha anche costruito una sua idea, una sua pratica e una sua pratica. Anche perché comunque non potrebbe farne a meno, cioè fa parte poi della nostra natura. È una lunghissima tradizione che è stata molto coltivata dal Papa precedente, questo Papa invece, Benedetto, non ha più ha messo la sordina alla politica della santità che invece Giovanni Paolo II aveva praticato con una incredibile così, apertura e con tantissime pratiche di canonizzazione. Insomma. Uno dei messaggi dice: credo che uno dei più grandi santi che, che sono nel cuore di molti sia San Francesco. La sua assoluta attualità, modernità la trova nella sua vita, incarnante il dono della vita per gli ultimi, la ricerca del dialogo e della riconciliazione al di sopra di tutto. Questo scrive una sua ascoltatrice, si chiama Graziella, e chiaramente noi quando si parla di Francesco pensiamo immediatamente ad Assisi. Ci sono dei luoghi che sono indissolubilmente legati a dei santi e ce ne sono alcuni famosissimi come Assisi, appunto, in tutto il mondo, tra l'altro straordinaria, bellissima. Se qualcuno non c'è mai stato, che ci vada davvero, che è un posto che non si può non vedere. E c'è Claudio Bacilieri al telefono. Bacilieri, buona domenica. Buona domenica anche a voi. Che è l'autore del libro I borghi più belli d'Italia, e è qui per raccontarci alcuni borghi legati comunque a dei santi, però sicuramente molto meno famosi di Assisi, ma straordinariamente belli e da andare a visitare. Il riposo del guerriero. Bacilieri, cominciamo da San Benedetto Po. Sì, San Benedetto è un santo ovviamente molto conosciuto. San Benedetto Po è un bel borgo padano in provincia di Mantova. Ha una bellissima piazza che ha mantenuto l'impianto medievale. E dunque la cosa più interessante da vedere a San Benedetto Po è il monastero, appunto, di San Benedetto, il monastero che è stato la cui basilica abbaziale è stata disegnata da Giulio Romano. È molto interessante il paesaggio perché appunto, i rumori della vita produttiva si perdono nel silenzio della campagna, che è costellata di ville abbaziali, pievi matildiche, corti agricole, caseifici. Quindi è un posto assolutamente da vedere. Ecco, tra l'altro proprio un posto anche di così, questo senso di clausura, di pensiero, perché come devono essere tutti i posti legati ai monasteri. Prima di parlare di un altro borgo, vorrei tornare con Carpanetto per così farci raccontare qualcosa sulla figura di San Benedetto. San Benedetto è una figura centrale nella storia della Chiesa perché è il santo a cui è legato il processo di costruzione del fenomeno del monachesimo, no? L'opera di Benedetto è decisiva per un intervento di disciplinamento del fenomeno del monachesimo. Il monachesimo esisteva già prima di San Benedetto, nel senso che c'erano state esperienze mistiche, penitenziali, praticate in Africa, in Oriente, c'era stato uno stuolo di anacoreti, eremiti, stiliti, ecco, quelli che stavano sopra la colonna, di asceti, insomma. E l'opera di Benedetto rispetto a questo precedente rappresenta una svolta significativa, perché fonda i monasteri, cioè fonda delle strutture dove i monaci vivono in comunità, e fonda delle strutture che non sono soltanto santuari di carattere religioso, ma sono anche grandi aziende produttive, sono luoghi di rifugio e di assistenza per i pellegrini che si spostano sugli itinerari del pellegrinaggio, no? Roma, Santiago di Compostela, Loreto e altri, e sono anche dei grandi centri di cultura, no? Nei quali si salva tutto il lascito culturale del mondo antico, che può essere se è stato conservato e studiato, lo si deve anche ai santuari benedettini. C'era anche da dire che San Benedetto probabilmente è anche una figura che in questa riforma del monachesimo ha avuto molti oppositori. È una figura che ha una nutrita schiera di avversari. Questo lo si capisce ad esempio da tutta l'iconografia che c'è intorno al santo, no? Il santo è spesso rappresentato con il corvo che gli sottrae il pane avvelenato, un calice col serpente, una verga, insomma tutti simboli che richiamano l'avversione che la sua vita suscitò nei suoi stessi confratelli e la forza appunto con cui Benedetto andò avanti attuando la sua riforma, insomma, perché rappresentare, come si vede spesso, Benedetto con un calice col serpente o che sta per mettere sotto i denti un tozzo di pane avvelenato che un provvidenziale corvo gli sottrae, insomma, indica, almeno secondo modelli iconografici ricorrenti, una figura controversa. Certo, io devono scusarmi gli ascoltatori, ma tra i borghi più belli d'Italia da visitare ne ho scelto uno che aveva il mio nome, che è Santo Stefano di Sessanio. Bacilieri, parliamo di questa località che tra l'altro non conosco assolutamente e dovrò andare a visitare a quanto pare. Beh, Santo Stefano di Sessanio è uno dei nostri borghi più belli perché è un borgo che è stato tra l'altro restaurato quindi recentemente, negli ultimi 10 anni, da un imprenditore italo-svedese che si chiama Daniele Kilgren, che ha recuperato le antiche strutture di questo borgo, che è un borgo mediceo, quindi è l'ultima appendice dei domini medicei in Italia centrale. Siamo in Abruzzo, vero? Siamo in Abruzzo, sì, siamo in Abruzzo. È un borgo di montagna, quindi siamo a 1250 metri di altitudine circa, ed è un borgo, è un gioiellino medievale, quindi è proprio un'esile miniatura medievale tutta di pietra, con delle bifore meravigliose, finestre in pietra lavorate, è molto ben tenuto. Ecco, quindi andiamolo a vedere, a visitare, devo dire grazie anche allo svedese, perché altrimenti, come purtroppo tanti gioielli italiani, avrebbe potuto perdersi, invece è stato recuperato, e meno male. Allora, i borghi di quali parli sono ovviamente tantissimi, io ringrazio Bacilieri, vi ricordo i borghi più belli d'Italia, appunto per conoscere il fascino dell'Italia nascosta. Buona domenica ancora, grazie. Buona domenica anche a voi. Carpanetto, Santo Stefano, io devo chiedere per forza, sono curioso, a parte appunto il fatto che si festeggia il giorno dopo Natale, io non so molto altro. O Stefanos, che significa corona. Se lei vuole visitare i borghi che si chiamano con il suo nome, dovrà dedicarci un po' di tempo. Ce ne sono tanti, immagino. Sono più di uno e probabilmente sono anche distribuiti in diverse parti d'Italia. Santo Stefano ha la particolarità di essere l'iniziatore del martirologio, è il proto-martire, cioè il primo martire della fede cristiana. Era uno dei 7 diaconi eletti dalla comunità di Gerusalemme per assistere gli apostoli. Fu accusato davanti al Sinedrio, fu condannato alla lapidazione, eccetera, eccetera. E in mezzo alla folla che assisteva a questo, alla sentenza della lapidazione, c'era anche Saulo, il futuro Paolo, non ancora convertito. E diciamo l'anno del martirio non si può stabilire con esattezza, può darsi che sia appunto intorno al 33 dopo Cristo. È un santo il cui culto si diffonde molto rapidamente, si diffonde soprattutto, viene poi rilanciato quando vengono scoperte le presunte reliquie di Santo Stefano, che sono rintracciate, portate a Costantinopoli, di lì poi furono trafugate, portate a Venezia, dove oggi sono deposte nella chiesa di San Giorgio Maggiore. Quindi, se lei oltre ai toponimi vuole anche seguire il viaggio delle reliquie del santo che porta il suo nome, deve girare un po' tra il Medio Oriente e l'Europa e poi arrivare a Venezia. Posso farlo, mi farò un bellissimo giro per tutto il mondo. Ecco. E arriverà soprattutto a Venezia, che nella crociata, la quarta crociata, appunto, operò queste trafugamenti, queste sottrazioni di materiale religioso e non solo religioso da Costantinopoli. Il bellissimo giro l'abbiamo fatto con lei, professor Lino Carpanetto, la ringrazio molto per essere stato ospite, per averci illuminato in questo senso, e quindi facciamo in modo che i nostri santi quotidiani davvero ci accompagnino, ognuno il proprio e anche più di uno, e visto che ci fanno bene, abbiamo capito che fanno parte della nostra quotidianità e della nostra vita. Grazie ancora. Grazie a voi. Arrivederci. docente di storia moderna e curatore del dizionario biografico dei patroni, Lino Carpanetto. Grazie e a questo punto continuiamo a parlare di santi, lo facciamo con la nostra glottologa, con Francesca Dragotto, e sentiamo chi parla. Senti chi parla. Francesca Dragotto, ciao, buona domenica. Buongiorno, buona domenica. I santi fanno parte della nostra lingua e in tanti modi di dire. Eh sì, è proprio vero. Imparentato con il sacro, dal quale si differenzia perché costituisce una condizione cui si giunge e non invece come per il sacro che si possiede fin dal principio, quindi una cosa è sacra dalla nascita, fin dall'origine, è santa invece quando si avvicina all'essere sacro a seguito ad esempio di un comportamento esemplare. Dal punto di vista grammaticale, santo è collegato al verbo sancire, di cui è il participio passato, a sancire, che è lo stesso verbo da cui si forma sanzione, la multa ad esempio. Di santo e santi, come dicevi tu poc'anzi, è piena la nostra lingua. Abbiamo infatti innumerevoli ambiti di riferimento che hanno a che fare con il santo o con i santi. Il primo ambito che mi viene in mente è quello dell'onomastica personale, quindi il nome proprio di persona, molto diffuso nell'Italia meridionale, per incidenza anche il nome di mio padre, il cui diminutivo, Santino, è usato non solo appunto come diminutivo di santo, ma anche nel lessico comune per indicare il cartoncino per lo più rettangolare su cui è riportata una preghiera insieme all'immagine di Gesù, della Madonna o appunto di un santo. Ora, sempre rimanendo nel lessico comune, abbiamo un verbo che mi piace citare, che è poco usato ma che è molto bello anche dal punto di vista espressivo, santocchiare, che significa recitare le orazioni, e da questo verbo abbiamo anche il sostantivo santocchiata, che è azzeccato per questo periodo perché è uno dei modi con cui si allude alla Quaresima. Ora, santocchiata proviene però da santocchio, un altro termine che potremmo cercare di rimettere in circolazione. Si tratta di una parola che è poco usata, abbastanza antica, ma che come significato ha un equivalente nella nostra lingua, un equivalente contemporaneo, perché è il bigotto, è colui che ostenta una devozione che però non corrisponde ai comportamenti. Passo ora ai proverbi, su cui sicuramente avrai da aggiungere. Molti di opposta vocazione, giocando con la lingua potrei dire, sono i proverbi che hanno a che fare con il santo. Ne ho selezionati alcuni, pochi, i primi tre per far vedere come la stessa parola, lo stesso santo, entri in sistemi di valori tra loro opposti. Santi ha ad esempio una valenza neutra in tutti i santi, la neve per i campi, in cui, come è facile immaginare, sostituisce primo novembre. Certo, nel giorno di ogni santi c'è la neve dappertutto, ha nevicato un po' più tardi quest'anno, vabbè, insomma, il detto è quello. Esatto, sì. Ogni santi che è scritto poi tutto attaccato proprio, sì, a testimoniare come si tratti di una prassi di pronuncia consolidata. Sì, come Capodanno, per capirci, ormai. Sì, esatto, come dappertutto o soprattutto, tutti gli elementi che in principio erano scritti invece separati. Santi costituisce invece emanazione di un sentimento senza dubbio religioso in quando il grano è nei campi, egli è di Dio e dei santi. Ha invece una matrice del tutto opposta nel Danunziano, fa più miracoli una stalla di letame che una chiesa di santi. Ora, i proverbi, sì, che non si offenda nessuno, queste sono attestazioni linguistiche, era interessante far vedere come lo stesso elemento potesse ricorrere in espressioni anche diametralmente opposte, certo. Esatto, sì, l'ho trovato di grande interesse. Ne ho selezionati alcuni altri, pochi, perché veramente si tratta di una massa piuttosto folta. E tra i pochi, tutti conosceranno Avuta la Grazia, gabbato lo santo, che si trova attestato anche come passare la festa e gabbare lo santo. Sì, quindi una volta che uno ha ottenuto quello che voleva, insomma, si dimentica poi di tutto il percorso e di chi magari l'ha aiutato. Esatto, e si dimostra ingrato. Una curiosità, spesso mi sento chiedere che origine abbia la parola gabbare, sì, prendere in giro, è un termine che l'italiano ha recuperato dal francese antico, dal provenzale, ma che però è di origine scandinava, quindi viene dal nord e in quelle lingue lo ritroviamo attestato col significato di schernire, quindi lo stesso significato con cui lo utilizziamo ancora oggi in italiano. Tra i pochissimi altri proverbi che ho selezionato, ce n'è uno che potremmo sempre suggerire al gastronauta: nella chiesa coi santi e in taverna coi ghiottoni, per indicare il fatto che ciascuno frequenta chi più gli somiglia per carattere, abitudini, comportamenti. E poi ogni santo aspetta la sua festa, ad indicare che prima o poi giunge un momento favorevole per tutti. E l'ultimo che citerò è: tu interverrai senz'altro, scherza coi fanti e lascia stare i santi, anche nella forma coi santi non si burla, per indicare che non bisogna mescolare il sacro con il profano, oppure che non è opportuno essere troppo disinvolti con chi è più potente. Esatto, quindi insomma usiamo i santi anche per le nostre frasi quotidiane quando ci viene insomma da usarli, e abbiamo visto che l'italiano e gli italiani ne fanno uso, e spero un buon uso. Grazie Francesca. Grazie a voi. Chiudo con uno solo dei tantissimi modi di dire avere santi in paradiso, che sa molto poco di santo. Il riposo del guerriero. Tra poco, vi ricordo, giocheremo con Modigliani in 24 minuti. Per voi la guida, il catalogo della mostra che sarà a Milano dal 21 febbraio, Modigliani e gli artisti di Montparnasse. Dovete associare le canzoni che ascolterete a delle opere presenti alla mostra, ma non soltanto. Io vi aiuterò come sempre, a quanto pare i miei aiuti poi davvero servono a poi portare a casa catalogo e anche due biglietti d'ingresso alla mostra. Il numero per prenotarvi 800 24 00 24. Giocheremo tra poco, ma io vedo già Davide Paolini. Il gastronauta. Ciao Davide, buona domenica. Buona domenica a tutti. Quando si parla di santi in cucina, a me mi viene in mente la Sant'Onorè, che è la torta che preferisco in assoluto. Ecco. Beh, allora ti dico che si può iniziare con un San Daniele. Ecco, sì, hai ragione. Vedi, non ho pensato. Si può passare a un San Marzano. Per condire la pasta, va bene. Ecco. Si finisce con un Sant'Onorè e s'annaffia tutto con un vin santo. Ecco, allora raccontiamo un po' di questi, dei nomi che hai citato, raccontiamoli. San Daniele, ma innanzitutto. Dai, ecco. San Daniele è un prosciutto, quindi nasce dal luogo. Il luogo si chiama San Daniele e quindi è preso da Ti stiamo perdendo, eh? Sei nella cantina insieme a San Daniele che stanno al fresco. Ci sei? No, no. Ah, ecco, adesso sì. Sì, okay. Sì, ci sono. No, dico, San Daniele prende il nome dal luogo, sì. Da questo splendido paesino, borgo del Friuli, dove ogni anno c'è una grande festa che riguarda il prosciutto, quindi gran festa, gran aria, e di conseguenza è nato appunto il nome, la derivazione è arrivata da quello. Sì, sicuramente ci sono altri prosciutti, ma non hanno preso il posto del luogo, anche se la denominazione in altri posti è del luogo. Lì invece venne prosciutto San Daniele, quindi ormai è chiamato così. La vera grande storia è sul vin santo, perché pare che questo nome in italiano derivi durante il Concilio di Trento, un cardinale greco, mentre beveva, diciamo che i sacerdoti, i preti e il clero sono abbastanza abituati a bere bene, e dice che mentre beveva questo vino che gli era stato offerto a Trento abbia pronunciato xante, xante, xante, santo, santo, santo. Tutti hanno pensato che volesse dire appunto santo il vino, in realtà lui si riferiva all'isola di Xante, dove nasceva questo vino particolare greco. Ah, perché gli ricordava quel vino. Per gli cui ricordava, sì, e da allora ha preso il nome di vin santo. Quindi di santo non ha nulla il vin santo di santo, in poche parole. Ecco. Vabbè, in Toscana ci sono altre storie, altre leggende, però questa pare che sia la più accreditata. La più accreditata. Sì. Mentre una bella storia è quella di San Biagio. Perché San Biagio? Non è un prodotto, ma San Biagio è il protettore della gola. Sì, è il panettone che non si butta via, no? Che si avanza, diciamo così. Esattamente. Ecco. Allora, c'è questa festa di San Biagio, paghi due, compri tre, perché sono quei panettoni che sono avanzati nei supermercati e altrove e vengono spacciati perché quella è la festa del santo, insomma. Quindi ci sono delle bellissime storie. Tra l'altro ho sentito prima che parlavate di San Stefano Sessanio. Sì. Bene, volevo ricordare che in quel borgo c'è una straordinaria sagra della lenticchia, quindi famosissima, e devo dire che forse è una delle più più, diciamo, frequentate nel tempo, quindi sicuramente anche lì c'è un qualcosa che riguarda il cibo, ma sai, il cibo con i santi e con i nomi così ci si può giocare sicuramente molto. Sant'Onorè, ecco, questa è una storia, ho cercato di capire perché si chiama Sant'Onorè. Sinceramente non sono arrivato a niente, perché ho cercato a destra e a manca, ma non ho trovato una liaison tra il Sant'Onorè e il discorso del dolce. Ma non è la forma che ricorda un po' un santuario, perché è tutto fatto a guglie, tra virgolette? Ma sì, no. potrebbe essere questa, sai, ci sono molte storie inventate. Questa è l'interpretazione Gallarini, hai capito? Ecco che... Ah, che bene, l'interpretazione Gallarini può andare benissimo. Comunque diciamo che i legami tra la Chiesa, il cibo e tutto quello che ruota attorno alla Chiesa, devo dire che sono moltissimi, per cui sicuramente ci si può anche giocare, perché ci sono stati tanti volumi anche scritti da preti, ad esempio c'è un bellissimo testo che è sulla cucina di Magro, scritto da un certo Don Libero veronese, ed è un bellissimo, bellissimo libro di cucina. Quindi sicuramente ci sono sicuramente delle liaison molto, molto importanti. L'altra cosa che non porta i santi, ma porta la Chiesa, sono gli strozzapreti o gli strangolapreti. Strangolapreti per Napoli, strozzapreti specialmente in Romagna. Qui c'è diciamo questa pasta molto particolare che da molti viene riferita al colletto in cui portavano i preti. Ah, non perché ti rimane in gola? No, ecco, qui c'è una seconda leggenda romagnola sì, che dice che la gente, c'era molta gente che si, sai, dobbiamo andare nell'area pontificia di quella Romagna che è stata sotto il pontificato, e c'erano molti, diciamo, molti, se vogliamo, anticlericali che speravano che il prete, si, mentre mangiava, si strozzasse e rimanesse lì, ecco, lo strozzaprete. Quindi deriva da questo, insomma. Sono delle belle leggende, ma il cibo è tutto legato alle leggende, ce ne sono tantissime che sono sicuramente completamente inventate, ma c'erano sicuramente i pubblicitari anche nel 400, 500, 600 e nel 700. Ed era un bel modo per dare notorietà a una pietanza, a un molto piatto. Molto meglio della pubblicità che viene vista oggi in televisione. Spesso, su certi prodotti. Spesso è così, è vero. Grazie ancora, ciao Davide, buona giornata. Ciao, buona Santa Messa. Grazie. Tra poco invece giochiamo con Modigliani in 24 minuti, anzi subito. Modigliani in 24 minuti. Per voi il catalogo della mostra a Milano dal 21 febbraio, Modigliani, gli artisti di Montparnasse. Il quadro associato alla canzone che state per ascoltare è di Shine Soutine e non posso dirvi certo il titolo, siete voi che dovete dirmelo. 800 24 0024 per portarvi a casa il catalogo della mostra e due biglietti d'ingresso. Una canzone della tradizione, questa è Verde Luna, in interpretazione di Mina. Graziella, buona giornata, buona domenica. Buona giornata, buona domenica a voi. Graziella, grazie. Allora c'è un quadro con un titolo direi molto semplice che ha a che fare proprio con questa canzone. E visto che poi l'interprete è Mina, che avrei riconosciuto, quindi è una donna. E quindi come potrebbe essere il titolo di questa opera di Shine Soutine in questo caso, non di Modigliani, ma di uno degli artisti di Montparnasse? Donna, ci siamo, no? Ecco, una donna. Sì, sì, sì. Come può essere questa donna? Donna in... Donna in verde. Donna in verde. Difficile, molto, grazie a te Graziella, complimenti per la trasmissione ricca di contenuti, piacevolissima. Ti ringrazio molto, buona domenica. Per te il catalogo della mostra e due biglietti d'ingresso dal 21 febbraio a Milano. Complimenti, ciao. Gli aggiornamenti sul traffico, poi sarà il turno di Gabriella con una nuova canzone. Ma Gabriella, stai tranquilla e serena, perché come sempre io vi aiuterò, e anche in questo caso si tratterà di un'opera di Shaheen Soutine. Modigliani in 24 minuti. Nuova opera da indovinare, in questo caso ognuno degli artisti di Montparnasse, grazie alla canzone che sto per farvi ascoltare, una bella interpretazione di Anna Oxa di un successo di Ivano Fossati. Ti senti attraversati, la mente fa una smorfia, ridendo al primo tram che sta partendo. Notte, notte, fantasia, paura e malattia, castelli di fortuna e di malinconia. Notte, un numero vincente, un whisky che non sa di niente, con una che non va. Bellissimo testo di Ivano Fossati, interpretazione di Anna Oxa. Questo è Matto, questo è il titolo della canzone. Gabriella da Roma, ciao, buona domenica. Sì, Gabriella. Buongiorno, buongiorno. Allora, Matto è il titolo della canzone. Abbiamo un quadro a indovinare e che ha un titolo molto breve. Innanzitutto io ho scelto la versione di Anna Oxa su quella di Ivano Fossati, quindi il soggetto di questo quadro secondo te può essere solo una... Non mi viene niente, perché io ero preparata su quella donna in però verde. Io ti sto aiutando. Sì, io ecco, posso quindi pensare l'idiota del villaggio. Fammi parlare. Andiamo. Perché mi viene fretta di parlare, perché penso che avete poco tempo. Ma tu non preoccuparti del tempo. Allora, dicevo, ho scelto la versione di Anna Oxa perché quindi il soggetto dell'opera è una... Donna, ecco, quindi abbiamo già, no? E il titolo della canzone è Matto, quindi come potrebbe essere intitolata quest'opera di Shaheen Soutine? Non mi viene, pensavo appunto all'idiota del villaggio, ma c'è una donna. Se non è, a parte che l'idiota va sempre bene, una c'ha l'apostrofo e l'altro anche. Certo. Quindi insomma, idiota vale per entrambi i generi, per cui potrebbe essere, ma non è l'idiota, sei vicina, è vicinissima, però non è quella la risposta giusta. Ma comunque c'è la parola idiota? No. Ah, ecco. Perché è quello che è sbagliato. E allora cosa no, posso devo fare? Non mi viene proprio, non so. Gabriella, mi dispiace. Ciao, grazie. Ciao. Prego, ciao. Buongiorno. Rita da Bergamo. Buongiorno. Ciao Rita, buongiorno a te. Allora, cosa potrebbe essere? Abbiamo detto che idiota non è esattamente. È facilissimo, è una parola, è un sinonimo. Puoi abbassare un po' la radio per cortesia o spegnerla, grazie. Ce l'ho spenta. No, scusatemi, chiedo scusa agli ascoltatori, ma io ho un rientro della mia voce perché stai usando un auricolare per caso, Rita? Forse ne ho accesa una in un'altra stanza. Guarda, che non mi freghi mica a me. No, perché io dovete capire che abbiamo un rientro della nostra voce. Allora, è un sinonimo ovviamente, non è matto, neanche matta, ma è la pazza. La pazza, ecco, potrebbe essere la pazza, non è neanche la pazza, è un altro sinonimo ancora. Grazie Rita, ciao. Grazie, buona domenica, ciao. Luciana da Roma. Sì, buongiorno. Allora, non è l'idiota, non è la pazza, non è la matta. È la folle. La folle, sì. È la folle. È troppo facile, ci avete aiutato molto. Beh, troppo facile. E intanto le due ascoltatrici prima di te. Dall'aiuto che ci avete dato. Ma io ormai aiuto, do una mano, giustamente. Per te il catalogo Modigliani Artisti di Montparnasse, due biglietti d'ingresso a Milano dal 21 febbraio. E quindi sarà una bella occasione per farti un viaggio qui da Roma. Grazie. A te, ciao. Daniele, stai tranquillo perché il prossimo quadro, questa volta di Modigliani, ha un titolo davvero, davvero facile legato a questa canzone. Margherita, un sogno, perché Margherita il sale, perché Margherita il vento e non perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. Margherita, Margherita, Margherita adesso è mia. Dopo aver perso X Factor, adesso fra l'altro la Rai invece vuole recuperare con una Rotalent, immagino, sulla canzone, dove tra i quattro giudici ci sarà anche Riccardo Cocciante, poi c'è la Carrà, Piero Pelù e Rene Grandi. Lo so perché ho visto la pubblicità seguendo Sanremo. Daniele Dacomo, buona giornata Daniele. Buongiorno Stefano. Allora, beh, insomma, questa canzone la conoscerai sicuramente, anche perché il titolo Cocciante l'ha detto solo 5.000 volte nel testo. Vero, sì. E allora, sono giovane, però non la conosco molto. Non la conosci molto? Sì, la conosci questa canzone. Margherita si intitola, comunque, per Margherita, capirci. Sì, sì, sì, sì. Allora, il quadro al quale mi sto riferendo ha un titolo, devo dire, molto semplice, decisamente legato a questa canzone. È Margherita. Quindi può essere. Può essere. È un piccolo indizio. Modigliani era molto famoso per i ritratti, ecco, diciamo, non per nature morte, tipo, no? Se no uno mi dice Margherita in un prato, no, è per i ritratti. E quindi cosa. Come potrebbe essere il titolo di questa opera di Modigliani? Ah, di Modigliani. Mm-hmm. Pensavo che fosse ancora di Shemes. Allora facciamo una bella cosa. Io e te non ci siamo mai sentiti, Daniele. Ok, ciao, è stato bello. Io, Daniele Dacomo, non l'ho mai sentito. Questa canzone resta per la settimana prossima. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, da Alice Cosilli ben arrivata in assistenza, e Filippo Aureggi in regia. E a voi ci sentiamo domenica prossima, puntuale alle 10, con Il Riposo del Guerriero. E buona settimana da Stefano Gallarini.